I'm sorry. This is my the co-founder, Preach. Hey, how's it going? Nice to meet you. Maybe you can answer some of these questions. Is that all right? Benvenute e benvenuti alla seconda parte dell'intervista Occupy the Hood. La prima parte era con Malik, uno dei fondatori e fondatrici del movimento Occupy the Hood. E durante la conversazione ci raggiunse Preach Peace, un altro dei fondatori, con cui abbiamo parlato di strategie di lotta e resistenza, e abbiamo conversato pure sulla repressione, anche dal punto di vista di comunità afroamericane, e come questi temi di repressione purtroppo sono frequentemente trascurate nell'ambito del movimento di Occupy Wall Street, e quindi parleremo pure delle varie strategie che loro propongono per modificare, per dare un impeto, una direzione un po' più efficace a questo movimento che ancora è in fase di evolversi. Buon ascolto. Questa, per ricordare a tutte e a tutti, fa parte dell'intervista a Occupy Wall Street tenutasi il 30 dicembre del 2011. Something I caught on television and it reminded me of the 80s and the crack era, like the drugs and all. I'm like, how the hell are these people come from Africa? Allora, ho raccontato a loro della situazione in Italia e dei CIE, cioè CPT, del codice penale e tutta una serie di modi che lo Stato italiano trova per intrappolare la gente, particolarmente gli immigrati, e scaraventarla in carcere. E Malik rispose che non sapeva che ci fosse così tanta gente africana. Comunque ha visto un documentario sull'immigrazione africana in Italia e ha notato come l'oppressione stia generando tantissimi disagi in quella comunità, e gli ricorda un po' la devastazione delle comunità afroamericane, che specialmente negli anni 80, che si videro spaccate tra spaccio e abuso di droga e quant'altro, e repressione poliziesca. Sia Malik che Preach erano al corrente dei senegalesi assassinati, per esempio, anche perché loro notano queste, cioè, cercano queste notizie, e la loro reazione è quanto sia facile sparare agli africani e ucciderli, mentre invece, poi ho aggiunto io, le immagini e gli altri costrutti che ci assillano quotidianamente danno la sensazione che gli africani sono quelli che sono più pericolosi, che i bianchi devono sempre stare attenti, che sono sempre i bianchi in pericolo. Ci dà un pochettino questa sensazione anche tra i mass media, e loro sono veramente d'accordo. Fanno credere alla gente che siamo subumani, dicono che siamo il pericolo principale, così che quando un africano è ucciso si ha una sensazione addirittura di sollievo, un sollievo ovviamente mai pronunciato all'aperto. E lo stesso vale in come gli afroamericani si relazionano tra di loro. Infatti, per i bianchi, per esempio a New York, i quartieri più sicuri per loro tendono ad essere quelli neri, a causa della repressione razzista. Per esempio, si vede l'esperienza di Troy Davis, ucciso dallo Stato recentemente, di Mumia Mujamal. Commentando sul recente attacco contro i Rom di Torino, di cui ho raccontato a loro, vedono in quell'attacco il classico modello o progetto razzista che riproduce in tanti contesti la repressione di interi popoli. Infatti, diceva Malik, ci si dovrebbe scrivere un intero libro dedicato puramente a uno studio comparato nell'applicazione di questo modello di repressione razzista. Infatti, nella storia delle comunità afroamericane sovente si faceva la caccia all'afroamericano con la scusa di stupri mai avvenuti. E tuttora succede molte volte negli Stati Uniti. Commentando poi, inoltre, negli USA fa parte della propaganda, di filtrare le notizie o non mettere in rilievo fatti di questo tipo come quello che è successo ai Rom, ed è per questo che movimenti come Occupy the Hood fanno paura alle autorità, perché promuovono la comunicazione tra diverse comunità e il diffondersi di notizie di questo genere, da cui poi si potrebbe anche imparare qualcosa per passare all'offensiva, per resistere, per trovare modi che diverse comunità hanno trovato per trovare una via d'uscita, per trovare delle strategie efficaci. Parte di questa filtrazione dell'informazione si vede nel silenzio stampa sulle carceri e anche per quanto riguarda le privatizzazioni dei sistemi carcerari in diverse parti del mondo. Per esempio non è messo in risalto questa tendenza e fa molto bene a tutte le corporazioni che ce ne guadagnano da queste privatizzazioni e i governi che sono gestiti anche dalle stesse grandi compagnie. Parliamo di esempi anche che vanno dal Sudafrica alla Nuova Zelanda, e Malik sostiene che sono guadagni facili che sono resi possibili da una cultura securitaria dove uno nasce già col potenziale di essere un futuro carcerato e quindi fonte di profitti, di lauti profitti, aggiungerei, specie in comunità di colore. Ci sono tutti gli incentivi, in altre parole, per guadagnare sullo sfruttamento dei carcerati. Per esempio Corecraft, una compagnia di mobili, usa manodopera a basso costo nelle carceri. Addirittura il servizio di registrazione automobili della Georgia, un ente statale, usufruisce di manodopera quasi gratis per l'adempimento dei servizi di base. Non è che questo in sé sia necessariamente sbagliato, dice Malik, dato che potrebbe favorire il reinserimento dopo la scarcerazione. Il problema è che tutti coloro che escono dal carcere hanno poi enormi difficoltà a trovare lavoro, sono schedati a vita o schedate a vita, per non parlare poi della mancanza di risparmi dovuta alla paga poverissima, pessima ai detenuti e alle detenute. Purtroppo la maggioranza non vede queste cose, non vede il privilegio dei bianchi. So it reminds me of the Chappelle episode. when he changed himself and he got on the bus. E parlando di privilegi irriconoscibili a quelli che di cui ne usufruiscono, ci ricordiamo della scenetta molto buffa messa insieme da Chappelle, un noto comico afroamericano, in cui si mostra gente in autobus tutta seria con un afroamericano, Chappelle stesso, camuffato da bianco. Quando l'ultimo afroamericano scende dall'autobus, tutta la gente bianca rimasta nell'autobus comincia a stappare bottiglie di champagne, a far festa, con Chappelle, travestito da bianco, completamente scioccato dalla scena. È un po' così che ci si sente nella comunità afroamericana, abbindolati continuamente dalla maggioranza bianca. In questa situazione è anche difficile riuscire a cambiare le cose quando si comincia ad attirare l'attenzione della stampa, dei giornali. Ci sono diversi motivi per questo. Per esempio, storicamente c'è una mancanza di continuità tra le generazioni tra le generazioni afroamericane, di uno spirito e di una organizzazione rivoluzionarie, provocate anche dall'ottenimento di fama e di accentramento di poteri di persuasione in singole persone. C'è anche l'ottenimento di diritti e di benessere per le nuove generazioni grazie alle lotte degli anni 50 e 60. Questo sta sdentando un po' il potenziale rivoluzionario della comunità afroamericana ed è anche una omologazione sottile. Per esempio, molti rivoluzionari vengono invitati a fare interventi davanti a pubblici di gente prevalentemente bianca e vengono in pratica sottratti dal compito rivoluzionario che altrimenti potrebbero svolgere. Così, per esempio, invece di dare da mangiare a coloro che non dispongono di cibo a sufficienza, si comincia a scrivere sull'attività di redistribuzione degli alimenti. E quello che sta succedendo pure a noi, dice Malik, ne dice pure Preach, che più veniamo invitati o invitate a parlare a parlare davanti alla stampa, davanti alla televisione, a riviste varie, e meno tempo abbiamo per incontrare gente, per organizzare azioni, per fare qualcosa per le nostre comunità. Questa è infatti una forma di omologazione voluta dal potere. C'è su questo una barzelletta che circola nel mondo afroamericano, che va qualcosa come: cos'è successo ai rivoluzionari afroamericani? Dove sono finiti? Beh, hanno dato l'assalto agli uffici di governo e sono usciti con un impiego. A parte le battute, quello che è successo è che le rivoluzionarie che non cedevano sono tuttora in carcere, o in pratica a vita, o sono state assassinati, mentre il resto ha trovato impiego, inserimento sociale, fama, tramite compromessi, oppure altre attività. C'è anche da aggiungere che rivoluzionari e rivoluzionari tuttora si trovano anche in altri paesi, essendo scappate e scappati dalle autorità tipo l'FBI. Comunque quelli che si sono compromessi adesso hanno un lavoro stabile, hanno un riconoscimento ufficiale e magari hanno formato delle corporazioni non a scopo di lucro, come molti movimenti per i diritti civili hanno fatto dagli anni 60 in poi, e così si sono in pratica assuefatti come movimenti, non hanno portato a termine il potenziale che in sé avevano. Il processo di omologazione è graduale e molto sottile, fino a che non fa altro che far conversare i cosiddetti rivoluzionari e le rivoluzionarie, e non si agisce più. Quindi la difficoltà sta nel diffondere il messaggio senza tralasciare le azioni concrete, la presenza nei quartieri. Tutto ciò ha anche molto a che vedere con il mantenimento di una certa indipendenza economica, affinché si dipende da benefattori o assistenza statale, non è possibile creare condizioni per una rivoluzione. Chi controlla il cibo controlla la società, mette con enfasi Preach. Chi controlla le risorse, il denaro, detta la legge. Per noi questo è un problema principale e fondamentale, affinché non si restituisce il potere alle comunità stesse sul controllo e la gestione dei beni, delle risorse, la maggioranza sarà sempre sotto una forma o l'altra di dittatura. Negli USA, per esempio, è quasi impossibile oramai per la maggioranza di produrre il proprio cibo. Addirittura in certe città arrestano gente che cresce il cibo improprio usando espedienti come il patentino sulle semenze, oppure divieti o permessi speciali per la raccolta dell'acqua piovana, oppure imponendo iter burocratici quasi impossibili per stabilire orti urbani e quant'altro. La privatizzazione della terra è il modo principale, ma non solo, in cui questo si concretizza. Starting to get it, right? Mm-hmm. And but why there is a disconnect between, you know, communities in a sense, is because what's been happening is this. Cercando di venire a capo della situazione per cercare di capire com'è che si può ribaltare, diciamo, questo prevalente atteggiamento di privilegio bianco che non è riconosciuto dalla maggior parte, molte volte, dei manifestanti stessi che partecipano a cortei e occupazioni, no, di Occupy Wall Street. Preach ha questo da dire, che c'è ora di fronte a noi una situazione nuova. Le minoranze che sono riuscite a migliorare le loro condizioni di vita si ritrovano frustrate, sapendo che ancora ricevono una fetta molto piccola dell'economia a cui contribuiscono col proprio lavoro, mentre una maggioranza vede i propri privilegi erosi col tempo e la loro condizione peggiorare, così che si avvicina alle condizioni storicamente migliorate per le minoranze, come ironia. Il problema per questa maggioranza che subisce una riduzione del loro benessere è che si tratta di una riduzione dei loro privilegi, non solo del loro benessere, e così si arrabbiano e mostrano tutto il loro dissenso, negli ultimi tempi, cioè non si sono resi conto che le minoranze negli Stati Uniti vivevano veramente molto molto peggio di come si trovano anche al punto odierno. La maggioranza bianca, diciamo. La loro è una lotta, infatti, per mantenere i loro privilegi in quanto bianchi o in quanto bianche, mentre invece la lotta delle minoranze è una lotta per la giustizia sociale. Questo vale anche per esempio gli orti urbani, il riciclaggio, eccetera, tutte le cose che vengono dette ecologiche di questo tempo. Bene, le comunità di colore sono sovente coinvolte in questi tipi di attività perché devono sopravvivere, non per fare bella figura oppure per farsi vedere ecologici o ecologiche. Vedasi per esempio quello che succede a Detroit, in cui c'è un diffondersi di orti urbani recentemente, ma veramente è per sfamarsi. Parlando di questo, io ho paragonato questa situazione a quella italiana, con il razzismo dilagante nella maggioranza che si è vista ridurre il proprio benessere, e sembra che ci siano delle situazioni analoghe con al di dentro e al di fuori dei movimenti degli Stati Uniti, anche per quanto riguarda la situazione italiana e magari anche l'Unione Europea, e possiamo dire magari in molte altre in molti altri paesi. Malik fa questa osservazione: molte delle lotte sono anche delle nuove generazioni, che sono quelle che devono adesso cercare di sopravvivere con un salario troppo basso in confronto ai costi sempre più alti della casa, il cibo, eccetera. Ma questo succede pure a coloro da comunità di colore che sono riusciti a trovare lavoro ben pagato, perché loro devono anche trovare i soldi per mantenere tutte e tutti nelle proprie famiglie, anche i familiari più distanti che sono tuttora anche in povertà, e quindi è una situazione comunque abbastanza disastrosa per le minoranze, ben più di quelle delle famiglie bianche, non ovviamente con eccezione delle famiglie bianche più povere, tale quali vivono per esempio nella Virginia occidentale sotto il giogo dell'industria del carbone. Preach aggiunge a tutto questo che quando la destra per esempio annuncia tagli e riduzione delle spese sociali, e la destra include anche quella democratica, quello che fa in essenza è condannare la maggior parte della gente di colore allo sfratto, alla fame, perché non si possono permettere ulteriori privazioni di quanto ne stiano già soffrendo da tempo. Il problema di fondo rimane il grande divario economico tra la maggioranza bianca e il resto della società, quindi bisogna stare molto attenti a queste motivazioni divergenti che portano a una protesta comune. E finora non è stato veramente riconosciuto nell'ambito del movimento che si tratta di una convergenza di motivazioni che però affiorano da contesti ben diversi uno dall'altro. Infatti quello che teme Preach, come la mette lui, è che ci potrebbe essere un grande problema di fondo che, se non viene affrontato subito, potrebbe scaturire in una spaccatura. Infatti lui la mette così: non usateci per riottenere i vostri privilegi e poi abbandonare il movimento, perché infatti si potrebbe anche trattare di questo. Coloro che sono bianchi e bianche in questa società statunitense possono sempre abbandonare il movimento e possono avvalersi dei propri privilegi, anche se sono sempre più ridotti, però sono sempre di più della maggior parte della gente di colore negli Stati Uniti. Malik ribadisce che questa è la lotta più importante e difficile: fare riconoscere ai bianchi la loro situazione privilegiata, e questa situazione è evidente a coloro che ne subiscono da questa società. Now let's move forward. Yeah. But you will not use us so you can get back your privilege. Allora, chiesi a loro, com'è che si può uscire da questa cecità dovuta a una situazione relativamente privilegiata da parte di molte e molti nel movimento? Cioè, come si può contrastare questo atteggiamento? Preach risponde subito che la situazione corrente promuove già una presa di coscienza su questi privilegi, però la sfida è di trovare il modo di superare gli stereotipi e le divisioni sociali esistenti, per esempio i bianchi poveri che lottavano per il sud schiavista durante la guerra civile negli Stati Uniti, un caso abbastanza classico. Malik aggiunge, c'è anche bisogno di sconfiggere la propaganda continua, assillante contro le comunità di colore, che da un lato questa propaganda propaga immagini di neri assassini, stupratori, ladri, eccetera, e dall'altro canto molte persone di colore sono sempre in stato di apprensione con i bianchi, sempre arrabbiati contro i bianchi, anche per motivi dovuti alla continua repressione e anche per le caricature, stereotipi nei loro confronti. E quindi ci si trova anche ad avere molto disagio, molta difficoltà nella comunicazione quotidiana. Quello che un bianco dice a un afroamericano può essere offensivo e viceversa. Questo è dovuto alle incomprensioni create da una propaganda spietata culturale, e sono incomprensioni utili a mantenere le divisioni sociali e a mantenere anche le divisioni all'interno del movimento. E quindi bisogna veramente contrastare queste difficoltà, cioè non contrastare queste difficoltà, piuttosto contrastare questi costrutti sociali e cercare di avviare dei dialoghi che superino queste divisioni storiche. Bisogna costituire, in altre parole, un fronte unificato di movimenti. E la fiaccolata per Martin Luther King, che si è svolta il 15 di gennaio, è uno sforzo in questa direzione. Infatti per il movimento di Occupy the Hood c'è un grandissimo apprezzamento per le strategie utilizzate e sviluppate da Martin Luther King e i suoi soci durante gli anni 60, che comprende una militanza che sì, fu chiamata pacifista, però cioè non è pacifista intesa nel senso passivo, ma in senso molto attivo, che poi non soltanto attira attenzione ma anche fa da diciamo da catalizzatore per un movimento sociale, e in questo Martin Luther King era molto esperto. C'è anche un altro problema, cioè un ciclo vizioso di cui abbiamo anche parlato, che si è sviluppato specialmente con l'avvento del consumismo agli albori del XX secolo, ed è un tipo di ciclo vizioso che specialmente per gli afroamericani è veramente devastante per le loro famiglie, ma anche per le famiglie bianche. Infatti si è sviluppato un sistema in cui padri o madri, specialmente madri di questi tempi, lavorano fino al midollo senza prospettive di pensione, di un granché di vita sociale tra amiche, amici e famiglia, eccetera, con bimbi che crescono in pratica con la TV, che incute gli stereotipi e le ideologie che poi per la generazione susseguente riproducono i problemi e le stesse divisioni sociali, gli stessi costrutti sociali che c'è bisogno di contrastare. E con questo terminiamo la nostra conversazione. Questi sono i messaggi principali che cercano gli attivisti di Occupy the Hood di diffondere al di dentro del movimento Occupy Wall Street, di cui ne fanno anche parte, specialmente anche sulle strategie da perseguire, per esempio quelle sviluppate da Martin Luther King, ma poi anche coniugate con quelle di Malcolm X, per esempio. Ed è per loro una lotta molto, molto importante, specie per quanto riguarda riuscire a svegliare anche molti giovani che purtroppo non si rendono conto di questi problemi, non conoscono le proprie storie. La storia di repressione negli Stati Uniti è molte volte sconosciuta alla nuova generazione, e quindi c'è anche bisogno di una componente, diciamo, educativa nel movimento che prepari anche i nostri nuovi attivisti e le nostre nuove attiviste ad affrontare dei problemi che hanno un raggio molto a lungo termine. Così allora si conclude la nostra intervista e ringrazio tutte e a tutti per l'ascolto. Spero che saperne di più del movimento Occupy the Hood non solo riveli degli aspetti delle lotte negli Stati Uniti che magari non si riescono ad appurare tramite altre fonti, ma che anche sia di interesse per quanto riguarda le strategie che si possono anche utilizzare nel contesto italiano. Con questo concludo e alla prossima.